Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Devo dire che il passeggero di fronte a me ha fatto il vuoto attorno a lui. Ma non per particolari motivi. Certo è che vedere qualcuno che assomiglia a un uomo dei boschi, qualcosa che sia un corona però 100 volte più avanti nel degrado fisico e comportamentale di un uomo che ha abbandonato il mondo civile. È vestito da boscaiolo, da montanaro, quasi da selvaggio, ha questa sorta di aurea regalità attorno a lui che gli crea il vuoto e quindi devo conoscere la sua storia. Da dove comincia la storia? Comincia la storia di un mese di febbraio. Io facevo motocross, una domenica sono caduto con la moto da cross, ho rotto il ginocchio, gambe e denti, ho fatto 9 mesi di ospedale. Quando mi sono ripreso ho lasciato fidanzata e lavoro fisso da 18 anni e sono andato a vivere nei boschi e volevo fare lo scultore. Quanti anni avevi, diciamo, quel periodo? 32. Ma è bastata una caduta dalla moto per farti cambiare vita così, come mai? Comunque mi piaceva quello che vivevo, ero in fabbrica, ero felice, non è che ero triste o che... Mi è successa questa cosa e mi è presa la fobia bella di usare l'argilla, che non l'avevo mai toccata neanche da bambino. Ma perché? Perché hai sbattuto la faccia sulla terra quando sei caduto dalla moto? Ho faccia e ho rotto le gambe, avevo solo le mani che mi funzionavano. La convalescenza, ho preso un po' di argilla e mi sono innamorato dell'argilla a tal punto da lasciare tutto e andare a abitare nei boschi per scolpire. Esattamente cosa hai lasciato? Chi hai lasciato? Ho lasciato la fidanzata dopo 10 anni che ero assieme. Ma gli volevi bene? Benissimo, stava bene con la Daniela. E come può finire un amore per una caduta dalla moto, per capire? Può finire sì, se la persona vicina non era magari quella giusta, non lo so. Ma te ne sei accorto perché hai battuto i denti? Scusa, non potevi accorgertene prima in altre occasioni? Eppure io ho sempre anche arrampicato, sono sempre stato in natura, in mezzo ai boschi. Eppure non mi è mai successa sta cosa della creta di toccare l'argilla, di voler toccare l'argilla. Ma fammi capire il meccanismo. Tu hai preso questo contatto con l'argilla perché ci sei finito dentro nel corso di questo incidente, questa caduta della moto? Io ho preso il contatto con l'argilla perché ero a letto convalescente e io a star fermo non sono mai riuscito e mi sono fatto portare a casa un pacco di argilla da 20 kg della mia fidanzata. Ma come ti è venuto in mente? Uno quando sta a letto di solito si fa portare i giornali, la televisione, le cassette per vedere i film. Dice, portami 2 chili di argilla alla fidanzata. Bravo, sì. Così, ti sei svegliato una mattina, portami 2 chili di argilla. E mi sono innamorato. E lei te l'ha portata senza dire niente? Sì, me l'ha portata. Non sapendo che magari era l'inizio e ti dava la prima occasione per far finire il suo amore. L'inizio della fine della vita di prima. Cioè, ma quando l'ha data c'aveva lo sguardo un po' triste, per dire, so che su questa argilla finirà il nostro amore. Era già un po' triste perché erano tanti anni che si era assieme, si voleva andare a abitare assieme e poi è successo sto incidente grosso. Sì, vabbè, l'incidente, però hai riacquistato l'uso, diciamo, degli arti. Tutto. Io sono 21 anni e vivo nei boschi, faccio. Quindi non è che era un incidente, diciamo, che ti ha compromesso la vita, un brutto incidente, poi una volta rimessi i denti, aggiustate le gambe, torni come prima. Sono tornato come prima. Quindi non è che questo ha determinato un cambiamento, che tu sei rimasto bloccato a letto così. Quindi no, alla fine... però ho fatto mesi a riabilitazione, in quel periodo lì ho usato l'argilla e ho provato a rientrare a lavorare per capire un po' cosa provavo. Che lavoro facevi te, scusami? Il saldatore. Quindi c'avevi una bella professione, una professione specializzata, non era un lavoro? banale. Avuto ancora, sì, però sbagliavo le cose che facevo da 15 anni, da 18 anni, mi accorgevo, io volevo andare via e sono dovuto scappare con lo zaino e sono partito. Ma come quelli che ne so, improvvisamente hanno una conversione, è quasi una crisi mistica la tua. Le figli, le scelte di cuore dicono che sono le più sofferte, ma sono le giuste, però non le capisce nessuno. Basta che ti fanno contento a te, capito? E sono stato felice, in questi anni qui sono stato un sacco di mostri, ho fatto... Ma tu allora hai lasciato casa, hai lasciato i genitori, la fidanzata come gliel'hai detto che era finita? Alla fidanzata gli ho detto che io voglio andare in Toscana a fare lo scultore, se vuoi venire con me, se no niente. Ah beh, gli avevi dato una possibilità di star con te. E lei ha detto no, non me la sento. No, lei mi ha detto, mi ha risposto così che mi ricordo che i suoi genitori non vogliono che sposa un artista. Vabbè, senti, l'hai fatto bene, hai fatto bene a lasciarla, a me sembrava tutto quest'amore. Certo. Vuole solo un marito, come molte volte succede. Bravo. Cercava un marito, qualunque sia, purché se la sposasse. Vabbè, viva la faccia dell'argilla che t'ha fatto capire questa meno cosa. Meno male, ho scritto un libro con l'intitolato Meno male mi sono fatto male. Ah, meno male, hai scritto anche un libro, Meno male mi sono fatto male. Sì, perché io scrivo dal giorno dell'incidente, scrivo da 21 anni tutti i giorni. Hai scoperto anche questa tua dote. Hai capito? Non è che hai battuto la testa e magari ti si è aperta una nuova... Ma non sono mica... Non ho neanche perso conoscenza, no. No, no, no. La moto comunque ce l'ho ancora nel cuore, sì. Sei mai montato su una moto dopo l'incidente? Sì, sono anche ricaduto nei boschi con la moto da cross. Allora scusa, ma... E non è servito per farti ritornare come prima, no? Magari il secondo incidente... No, mi si è aggiunta l'arte, è una cosa... meraviglioso. Sì, allora ti conviene buttarti giù dalla moto da un precipizio ogni due mesi, così ogni due mesi acquisisci un superpotere, no? Comunque ho fatto corsi anche elementari e le medie, ho fatto un bel percorso. Vabbè, allora, primo incidente, lasci la fidanzata, lasci la famiglia e dove vai? Vado a vivere a Radicofani, ho letto un articolo di un giornale che diceva cerco governanti per le mucche, custode, mi davano 500.000 lire al mese, vitto e alloggio. E sono partito nel 99, vicino a Radicofani. Nel 99 con 500 euro al mese. 500.000 lire. Ah, 500.000 lire, figurati, manco. Sì. Mezzo milione di lire, di vecchie lire al mese. Sì. E sei andato a governare le mucche. Sono andato a governare le mucche e usavo l'argilla nel frattempo. Poi in Toscana. Cioè, usavi più merda che argilla, permesso parlando a quel punto. Perché, io ho trovato un'energia. Io sono nato in condominio, sono cresciuto in un contesto normale di lavoro. Fabbrica. Apposta la campagna è un'altra cosa, però se non sei abituato è un bel passaggio. Io ho visto le pecore vere a 32 anni. Cioè anche andare a governare delle mucche in una stalla, se non è abituato è un bel impatto, non è che è una cosa... È tutto stato un bel impatto, però io basta che avevo il mio angolo di usare l'argilla. Ma con l'argilla cosa facevi? Che opere facevi? Cominciavo a fare dei busti. E ti sei trovato anche questa vena artistica, cioè bisogna saperle fare le cose, mica si improvvisa. Chi ti ha insegnato? Lo so, però io... È come se mi è stato detto tutto in questo periodo, io sapevo cosa dovevo fare. Ma sentivi delle voci? Chi ti diceva queste cose? Come faccio a spiegarti? Provaci, una voce che ti veniva da dentro, un'illuminazione. Io so che mi veniva un'idea e la riuscivo a fare, riuscivo a capire il materiale, poi ho letto un libro di Nino Caruso e ho... E chi è Nino Caruso? Nino Caruso è Ceramica Viva. Ah, non lo so, non è sono un molto. Beh, comunque ho letto il libro per le basi dell'argilla, le temperature. Cioè, diciamo uno che ti insegna come si cuoce, come si tratta, tutto. Si lavora. Io so cucinare, so far tutto, anche con i forni a legna, a tunnel, sottoterra. Ma hai cominciato da solo a farti anche i forni per cuocerla? Sì, perché io ho sempre vissuto nei boschi senza luce e senza acqua. Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Faire l'amour dans les champs, je veux faire. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. La prima casa nel bosco, come l'hai fatta? La prima casa nel bosco, ho trovato una casa occupata. Erano abusivi, sono andati via, io ho occupato case. Cioè tu hai mandato via gli abusivi e ti sei messo al posto loro? Sì. E come hai fatto a cacciare? Tante case sono vuote, ne ho occupate tante in Toscana, perché ogni due anni, in Italia, ogni due anni cambiavo zona. Sì, è vero, è pieno di casolari abbandonate nelle campagne, l'Italia è piena. Bellissimo, è pieno. Sì, però sono case di solito fatiscenti, col tetto sfondato, senza finestre. A me non mi interessa, io anche dove abito adesso c'ho una casa nuova, sì, però c'è il tetto, non c'ho finestre. Cioè stai con l'aria che entra e esce così? Sì, da quando... sì. Cioè vivi praticamente come una volta un selvaggio. Come di che vivi? Le vendi le opere? Le opere non vendi niente, le faccio per me. Qualcosa do via così, faccio qualche mostra. Ne ho fatte troppe, adesso non ne sto facendo più perché mi sono stancato. Ma ti aiuta questo? Avrai bisogno anche di un po' di soldi per vivere, minimo? Allora, no, per vivere lavoro tutti i giorni. Faccio o boscaiolo o faccio la linea per qualcuno o vendo. Ah, quindi lavori pure, cioè ti dai da fare, non è che stai... Sì, faccio 3 ore al giorno di lavoro, non di più. E ti bastano per, diciamo, il minimo, sì, indispensabile? Io non c'ho vizi, sono anche astemio, tu vedrai. Non hai più avuto, no, da allora? Ne hai più avuto una donna, una fidanzata, un'amica? No, ne ho avute anche troppe di donne. Ne ho conosciute una fraccata, ma sono tutte materialiste, non mi interessa. Beh, materialiste, scusa. C'è una donna che viene con uno che vive in mezzo ai boschi, vita quasi selvaggia, con le mani nell'argilla tutto il giorno. È già un bello sforzo per una donna, no? Una donna ti viene... dovrebbe essere la vita dimensione uomo normale, a parte che abito nel bosco, ma se anche avrei una casa normale, avrei sempre l'argilla tra le mani. Sì, ma metti caso, una ti conosce. Dove le conoscete? Come fai a conoscere una ragazza? Ma le mostre, l'assessore alle culture, ma sai quante donne le mostre conosci? E si innamorano dell'artista un po' così, un po', bravo, selvaggio. Il detto che dice... Tipo Corona, ecco, una cosa del genere. Tu vai in giro vestito come Corona, così anche te un po' selvaggio. Sì, io sono sempre un po' più vestito da boscaiolo. Ah, sempre. E vedono il boscaiolo. E fammi un esempio tipico di storia come può nascere, perché mi sembra strano, oggi hanno il palato così raffinato, se ti vedono che non sei vestito... Basta che fai un banchino, ti metti lì a scolpire e vengono lì loro. E poi dicono, dai, ti voglio amare per tutta la vita. Dice, tante ti vogliono amare per una sera, tante ti vogliono amare per sempre, poi se c'hai i soldi ti amano per sempre. E beh, tu i soldi non ce li hai, mi sembra di capire, non è che no, sei... No, non ne ho, sono senza niente, però... Se gli dico che ho soldi si innamorano, se gli dico che abito nel bosco... Ma è difficile a credere uno che vive in mezzo a un bosco, scusa, una casa senza finestre, ci abbia i soldi. Verranno con te perché gli piaci, sei un tipo affascinante, non lo so. Ma non servono i soldi per fare le finestre, se voglio me le faccio io. Però non mi servono. Io non so cosa mi è successo, so che l'essenzialità è bere, mangiare, dormire e fare ciò che ami. E dormo poco e niente, dormo 2 ore a notte... È un ciclo continuo. Due ore a notte dormi, come fai a vivere? Sì, dormo niente, non mi piace dormire, non mi piace. Ho capito, ma il fisco ha bisogno di dormire. Se vado a letto alle 2, alle 6 mi sveglio senza sveglia. Ma sono già 4 ore, comunque, meglio di niente, 4 ore. E comunque sto bene, un po' fisicamente, perché ho 53 anni e la vita nel bosco, che è esigente, il bosco... Ma non hai mai avuto bisogno di medicine, di un medico, di curarti, no? No, appena mi sono operato di ernia lingue 2 volte. E beh, quello è lo sforzo per alzare i tronchi degli alberi, queste cose. Però qua, alla fine il resto sto bene. Di tutto, ho appena fatto un'ecografia agli organi. E tutto bene, tutto a posto. Tutto ok, tutto, anche la prostata. Anche, vabbè, giustamente, la controlli. No, tutto, sto benissimo. Vabbè, quindi ci tiene alla salute, non è che sei proprio io selvaggio. Io mi curo molto bene. Quindi non sei proprio poi un selvaggio. Ho camminato sulla braccia, so farmi massaggi a piedi, ho imparato un sacco di cose. Hai camminato sulla braccia, questo per fare quella prova per superare te stesso, come fa? Come mai? No, ho fatto, mi hanno fatto camminare sulla braccia a Padova perché ho fatto un ritratto a un italo australiano. Sì. Basil De Luca, eh. E invece di pagare, loro fanno corsi di autostima sulla Padova. Cioè invece di darti soldi, cioè pigliati sta braccia e camminaci sopra. Io ci ho camminato tre volte a 15. Vorrei anch'io, diciamo, andrei a comprare una casa con un secchio di braccia. E non ti sei scottato i piedi? No. E quindi ogni tanto a casa fai la braccia e ci cammini sopra. Camminato per i nudi in giro, io sono selvatichino. Però sono sempre stato anche da bambino così un po'. Ma c'è qualcuno nella tua vita che ti piace vedere, ti viene a trovare, a parte le signore che si innamorano di te, le allora mostre? Ci sono degli uomini che vengono a trovarmi, due o tre borghesoni ogni tanto vengono a prendermi qualcosa. Ah, ti rubano le opere? No, no, me le pagano, non do niente, non rubano niente. Quindi cioè, sei quotato, sei un artista quotato? No, c'è una quotazione da Vittoriano a Roma, dal 2007. Vabbè, ti entrai come Ligabue, quando muori tutti diranno, vedi, questo era un artista selvaggio, ha fatto... Ma niente, ma io nel frattempo ho già avuto il mio premio, sto facendo una vita che ho sempre sognato, libero. Va bene, hai trovato una formula vincente. Buon viaggio, sarà difficile il ritrovo in treno perché uno come te, secondo me, cammina soltanto a piedi. Io sì, in treno ci vado, pare. È capitato che ci vado. Vabbè, lo so, lo vedo. Però in bocca al lupo, alla prossima foresta che ci incontreremo insieme. Buon lavoro, ciao. Anche a te, buon lavoro, ciao, ciao. Se dovessi dire che ho incontrato lo sguardo del reduce, forse mi allargherei un po' troppo. C'è a dire che questo signore, molto ben conservato e giovanile, nonostante la tempia imbiancata di fronte a me, ha l'idea di un uomo che abbia vissuto profondamente, quasi che la sua vita sia stata un'avventura di quelle che si raccontano soltanto nei film o anche soltanto nel breve tratto di un viaggio in treno. Il giorno che ha cambiato la mia vita è un giorno abbastanza lontano, oramai si parla del 1992, quando ancora c'erano le lire e quando non avevo i capelli bianchi. Nel 92 quanti anni avevi? Avevo 24 anni. 24 anni, e che ti è successo? Quel giorno lì che ti è cambiata la vita, che ti è capitato? Quel giorno lì, cioè, la vita mi è cambiata il giorno prima di quel giorno lì specifico. Ovviamente io stavo guardando in televisione un documentario, ero appassionato di arte militare, diciamo, di queste stupidate qui. E ho guardato. Vabbè, eri appassionato di militare, giocavi con i soldatini, leggevi le riviste, ti piacevano le armi. Sì, ma niente di impegnativo, una cosa così, no? Da ragazzotto proprio, facevo modellismo, vabbè. E c'era un documentario sulla Legione Straniera. In questo documentario sembrava fosse il paradiso in terra, no? Cioè, venite da noi, viaggerete. Ah, era un documentario, diciamo, promozionale per farsi arruolare, sì, per invogliare le persone a arruolarsi. Sì, praticamente, cioè non era proprio promozionale, era proprio un vero e proprio documentario, però all'interno era sottinteso che si stava bene. Beh, stava bene chi come te era appassionato, perché ti fai un culo che non finisce più, vai a combattere. Cioè, lo star bene dov'è? Stai meglio a casa, secondo me, però... Sì, stai bene a casa, sai, se hai un lavoro, se hai degli affetti, allora... Io in quel periodo lì sarà stata la giovinezza, sarà stato quello che vuoi. Ti hai rilasciato con la fidanzata, di la verità. Sì, mi ero lasciato la fidanzata, ma l'anno prima e per colpa Però mia, ti bruciava ancora l'amore interrotto, le fare un gesto eroico. No, gli misi le corna io, quindi... Vabbè, quello che vuol dire, quello fa parte del contratto, non scritto. Lei se n'è accorta, ti ha lasciato. Bruciavo... No, l'ho lasciata io proprio, assolutamente. Ah, sì. Non avevo di queste turbe. E praticamente niente, comunque ho visto questo documentario. Poi così, all'epoca c'era il... Non c'era internet, tutte queste cose per informarsi. Allora io, così, non so nemmeno io perché, chiamai il servizio 12. Ah, quello, no? Quello della team di allora. della team, proprio della team. Allora, no, non si chiamava team, si chiamava, come si chiamava? Non mi ricordo. Vabbè, comunque... Vabbè. Era il chiama 12. Il 12, comunque il 12, era il numero del 12, capito? Il 12, ecco, perfetto. Della SIP, ecco, la SIP si chiamava. Forse c'era già la team, adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque, il 12 era il servizio informazioni, allora non c'era Google. No, era Telecom. Ah, vabbè, comunque hai chiamato il 12. Il 12 chi gli ha chiesto? Chi gli ha chiesto il 12? E all'operatrice, gentilissima, ha detto: ma mi scusi, ma esiste un numero di telefono che faccia riferimento alla legione straniera? Si è messa a ridere e fa: ma guardi, io. E poi guarda e dice: ma sì, in effetti qua risulta. In Italia? No, risultava in Francia, a Nizza precisamente. A Nizza. How come we still fall in love? If every time love will fail us, how come we keep fighting for? If we know we'll lose the war. Do we have to fall apart that completely when love fails us? It's not like someone takes it all. Feels like that, but there you're wrong. It's a whole new level of overstatements, whole new level of emptiness, whole new level of self-betrayal, and that's enough. Yes, that's enough. How can you trust someone new if the one you thought you knew broke your heart and stole the air around you everywhere? It's a whole new level of drinking red wine, whole new level of loneliness, whole new level of envying other people's happiness. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Io chiamo, mi rispondono in francese, naturalmente: bonjour, les gens étrangers, si vuole dell'information, naturalmente tutto quello, tutta la parafia. Io all'epoca francese ne masticavo poco. Vabbè, comunque ha capito che siamo abituati di tutto. Chiamava gente, assassini, ladri, gente inseguita, ricercata, figurati si formalizzava. Sfatiamo sto mito, magari prima, in quegli anni lì, no, era già un pochino più professionale. Infatti quanti mi passano... Tu eri un ragazzo, poi maggiorenne, vero, sì? Io? Sì, 24 anni, assolutamente. E mi passano un operatore che parlava italiano, infatti era di origine italiana. Mi dice: guarda, se tu vieni qua, ti facciamo le visite, se va tutto bene, ti arruoliamo. E tu sei andato? Io l'ho presi quasi come... Così, no, quasi. Ma tu studiavi, studiavi, lavoravi, che facevi? Allora, io avevo finito gli studi, l'anno prima ero andato a fare l'animatore turistico, no? Cioè niente, lavoretti così tanto per... Sì, lavoretti per, un po' così, alla buona, nel senso mi davano 500.000 lire per una stagione, cioè... Sì, ancora, diciamo, non avevi messo a punto il tuo futuro, ecco, facciamo così. No, assolutamente per niente. Allora mi dissi: ma perché no, perché non andare a vedere? E allora dissi ai miei genitori che io dovevo ripartire per fare la stagione turistica da animatore, anche se era marzo, però gli ho detto: guarda, io vado in Francia, che la mia agenzia d'animazione mi ha procurato un contratto con un hotel. È una palla clamorosa proprio, ma senza pensare poi cosa avrei potuto dire, cosa non avrei potuto dire. Diciamo, all'epoca mi passò per la testa: vabbè, io vado là, provo, se mi prendono, dopo un po' glielo dico ai miei e vediamo come reagiscono. Pensieri idioti, vabbè. In effetti sono andato lì, in effetti c'era l'ufficio reclutamento. Sono entrato, una persona gentilissima con la sua divisa. A casa che gli avevi raccontato? A casa gli avevo raccontato che sarei partito di nuovo per fare l'animatore, una stagione a Nizza. L'avevi detto al posto? No, non gli avevo detto a Nizza, gli avevo detto in Francia. Quindi loro contenti, partire a fare il lavoretto stagionale. Sì, sì, sì, sì. Poi naturalmente pensavo, ho detto vabbè, primo, non mi prendono, cosa mi prendono a fare? Secondo, se mi prendono e non mi piace vengo a casa. Mm-hmm. Invece? Perfetto. E invece sono andato. Io tra l'altro a militare anni prima ero in un corpo speciale, nel senso ero nella Folgore. C'è la passione per adutisti, il cuore oltre l'ostacolo, era anche magari un po' fascio, dai, ti dava gusto sta roba. Oddio, il cuore oltre l'ostacolo, no? Parà nella Folgore, poi vai nella legione straniera, ti piace, cercavi il combattimento, la prova del fuoco. No, io alla verità cercavo un lavoro remunerativo, però vabbè. Potevi andare a fare lo spazzino, scusa, c'erano tanti lavori se volevi. Comunque vabbè, sei andato lì. Prova, come funziona l'impatto? Che esame ti hanno fatto? Mi hanno fatto le visite mediche innanzitutto. Alle visite mediche sono risultato completamente idoneo. Se avevi fatto il parà nella Folgore, fisicamente eri a posto, sennò non potevi fare certo, anche... Però i requisiti per entrare nella legione sono un pochino più specifici, nel senso denti completamente a posto. Ma nemmeno una carie deve avere, niente? No, assolutamente nessuna frattura, no. Devi essere perfetto, parecchio integro, parecchio integro. E anche perché poi ci pensa loro a romperti i denti, quindi... Sì, successivamente sì. Allora quindi? Allora quindi, niente, questo, dopo questa visita sono stato convocato, io sono stato lì come in Italia, i 3 giorni della visita. Ma quanto è durata invece a Nizza? Sempre 3 giorni? Lì a Nizza 3 giorni. Ah, sempre 3 giorni, sì. Cioè sì, visite mediche, test attitudinali, tutte le prove. Sì, anche una specie di consulto psicologico con un caporale molto gentile che parlava perfettamente italiano e che era entusiasta del fatto che altri italiani andassero a cercare lavoro. È un lavoro come un altro, adesso onestamente qualcuno deve farlo quel lavoro, giustamente chi ha l'attitudine lo fa. Questo legionario era uno scritturale, lui non ha, dopo il corso, dopo la scuola di guerra, era tornato lì e non ha mai visto un'arma in tutta la sua vita. Però doveva fare il corso, la prova di attitudine, qualcuno doveva farlo, era come fosse un ufficiale medico, non so cos'è, un furiere, qualcosa del genere. Certamente, no, lui era un sottufficiale. Un sottufficiale medico, sì, quindi t'ha visto, ha fatto le domande, ti ha chiesto se c'erano dei motivi particolari, se scappavi da qualcosa. No, assolutamente, non mi ha chiesto niente di quel genere, ma solamente parlato. Adesso io non ricordo benissimo tutta la discussione, però abbiamo amichevolmente parlato, diciamo. Al che mi è stato presentato il contratto. Per quanti anni dovevi firmare all'inizio? Allora, erano 5 anni, no? Che poi una volta finito si potevano rinnovare per altri 6 mesi oppure per altri 5 anni. Quello era proprio il contratto standard. Ah beh, lì per forza. Ecco, e prevedeva naturalmente la consegna dei documenti italiani. Ah, quindi che avrei dovuto. Tu ti azzeravano dal punto di vista dello stato civile? Beh, assolutamente sì. E venivi avvertito che non, al corso di guerra alla scuola il CAR, diciamo, sì, non avresti percepito uno stipendio in franchi all'epoca, ma era proprio una moneta usata per i legionari che potevi spendere solamente all'interno della legione, quindi questo per evitare naturalmente. Ma tu eri abituato anche ai club terranei, in quegli anni ci davano le palline invece che i soldi, quindi eri abituato. più o meno sì, ma il club mediterraneo era forse un pochino più duro. C'erano le collanine con le palline in quegli anni, adesso non so se è cambiato, ma allora c'erano le collanine con le palline al posto dei soldi. Collanine che poi si riducevano a braccialetti, lo ricordo bene. Certo, alla fine. Ecco, quindi hai firmato il patto di sangue. Sì, io firmai il mio contratto. Ma a casa li avvertiti che nel frattempo tu sparivi dal mondo, no? No, in quel momento no, perché questo legionario, certo, fu chiaro e mi disse: guarda, adesso tu verrai mandato in al corso d'addestramento, che era in Corsica, non so se è in Corsica, certo, sì. Ah, ok, ad Ajaccio, ecco, perfetto. Era la Trasea Mobagne, dove mandavano praticamente tutti gli italiani, qualche slavo, vabbè, poi ci si arriva. Però io pensavo, nella mia testa bacata dell'epoca, pensavo, vabbè, io vado lì, telefono. Se non mi piace... Sì, una volta dentro non esci più, che discorso, hai firmato, vai. Ho firmato, però quante cose si firmano che poi uno dice, vabbè... E vai alla legione straniera, ti levano i documenti, tu scompari dal mondo, diventi un legionario e basta. Legio patria nostra, fine, ecco, così è. Appunto, però non ci pensavo, ecco, diciamo la verità, non ci pensavo. Io pensavo, ma sì, vado lì, faccio, guardo com'è, se mi piace resto, se non mi piace me ne vado a casa. Certo, il campanello d'allarme mi ha suonato quando ho visto che mi hanno pigliato tutti i documenti che avevo, tutto quanto, documenti, soldi, tutto quanto, e mi hanno detto, vabbè, questi li teniamo noi, scegliti un nome. Come ti sei chiamato te? Io mi ero chiamato, non sapevo cosa dirgli, solo che questo qui mi consigliò di darmi un nome tedesco, perché gli italiani all'epoca avevano quasi tutti i nomi tedeschi. Io non sapevo cosa... Sì, ma se tu apri bocca si capiva che non eri tedesco, scusa. No, assolutamente, ma tanto la nazionalità... Io da lì in poi avrei dovuto solamente parlare francese, perché comunque tutti gli ordini erano impartiti in francese. Ah. Quindi non c'era francesi. Problema, erano azzerati tutti. Quindi come ti sei chiamato? Quindi il primo nome tedesco che mi venne in mente era il nome di un regista, che era Fritz Lang. Fritz Lang, fantastico. Ecco, e allora io le dissi, vabbè, mi chiamo Fritz Lang, e avevo documenti come Fritz Lang. Va bene. No, guarda, io là ho trovato anche Immanuel Kant, cioè... Vabbè, quindi... ognuno c'ha nomi famosi, sì. Assolutamente, assolutamente così. Bene, e da lì sono stato inviato ad Ajaccio, naturalmente. Diciamo che il primo impatto non è stato bruttissimo, perché a parte eravamo tanti italiani e tra di noi un po' di italiano lo parlavamo in silenzio. A parte Fritz Lang era austriaco, adesso che ci penso era austriaco, non era tedesco, comunque vabbè, è uguale. Poi viene in America. Capito. No, Fritz Lang, dico, era austriaco, ma ha sempre vissuto in America. Comunque non era tedesco. Sì, ma mi piaceva il nome. Sì, vabbè, ti piaceva. Il primo che mi era venuto in mente, cioè me ne era venuto in mente anche un altro famoso, però ho detto no, non posso chiamarmi così. Allora, vabbè. Anche perché siamo in Francia, mi ammazzano. Allora, arriviamo al corpo, al corso. E inquadrati tutti quanti, tutti belli, e da lì naturalmente cominciano i problemi. E tu hai ancora aspettato una telefonata dal club vacanza, sì, dove tu lavoravi? Va bene, i miei ancora aspettavano una telefonata qualsiasi o una lettera, ma allora non c'erano i telefonini, non si preoccupavano più di tanto. Anche perché l'anno prima li avevo chiamati pochissimo. Quello non avevo problemi, quindi per me e per loro andava bene così. Over wild white horses. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. L'addestramento com'era all'inizio dell'entrata nella... Beh, tu avevi fatto il paravi, eri già abituato più o meno a un addestramento militare duro. Lì invece qual era, sì, la differenza? Lì, beh, la differenza è innanzitutto sul il trattamento che ti riservano gli addestratori, gli ufficiali, che se nei parà è duro, lì diciamo che fuori dagli schemi, cioè come nei film, si... proprio come nei film. No, i film sono molto edulcorati. Ecco, cioè, tipo Full Metal Jacket, cose del genere, capito? Palla, sì, di lardo, di morire, marcio muore, diciamo, marcio, ecco. Muore, ecco, marcio muore. Ecco, e anche perché gli ordini venivano impartiti tutti in francese, se non capivi venivi punito. E lì le punizioni non era punizioni corporali naturalmente, c'erano anche punizioni corporali, c'erano come si dice, anche umiliazioni, cioè, nel senso, io svariate volte ho dovuto marciare nudo con gli altri ragazzi, cioè anche a tutti i vestiti te nudo per vergognarti. Sì, sì, è successo anche quello. Beh, oddio, c'è anche di peggio, pensavo peggio sinceramente, pensavo che ne so, la fossa sott'acqua, la gabbia con le sanguisughe, le bastonate, no, pensavo vabbè, queste cose qua. No, quello no, cioè il frustino sì, veniva usato, ti frustavo, vabbè. No, il frustino, l'ufficiale aveva un frustino in mano, ogni tanto da una scurisciata partiva, ecco, una piccola scurisciata te la dava. No, l'addestramento era duro, proprio in quanto addestramento militare, quindi le marce forzate, le marce premio, perché poi c'erano anche le, la domenica noi avevamo la marcia premio, che consisteva in una marcia di 40 km con zaino fardellato invece che una marcia di 60. Quindi allora lì, al premio che era 20 km in meno, quello era il premio. Sì. E senza corsa. Quindi tanto una marcettina, quindi, 40 km per sciogliervi. Sì, infatti, lo zaino pieno, però, quanto pesava lo zaino? Allora, lo zaino era uno zaino tattico quadro che vabbè. Beh, almeno 15 kg sarà stati di roba. No, anche di più, anche perché mettevano dentro dei pesi di metallo e beh, soprattutto sulle prime marce dovevi farti il fiato, diciamo. Quindi lo appesantivano. Sì, erano abbastanza pesanti. E l'addestramento con le armi? L'addestramento con le armi... almeno quello ti sarei divertito, almeno quello. Sì, beh, divertente sì, certo, vabbè. A sparare piace a tutti, penso, a sparare alle cose inanimate dovrebbe piacere a tutti. Ecco, diciamo che l'addestramento con le armi a terra era divertente, con le armi in lancio era divertente un pochino meno. Perché? Perché naturalmente essendo noi addestrandi, arrivavamo freschi, per esempio quando ci si lanciava con i mortai, mm-hmm, no? Ecco, a me, ultimo arrivato, toccava il tubo del mortaio, cioè il pezzo più grosso, più pesante. Sì, e però naturalmente il sottufficiale che non aveva voglia di portare il tripiede ti dava anche quello, portare a me, mi dava pure il tripiede. C'hai tutto il mortaio intero te. Quindi diciamo che ci si lanciava con il tubo davanti, il tripiede dietro, il sacco C che pesava già di per sé, quindi l'atterraggio era pesante, diciamo. L'atterraggio sì, anche perché così carichi non avveniva a zero. Abbiamo avuto atterraggio. Ma il sacco lo calavi prima di toccare terra a te, però, mi pare, no? Non ho capito, scusami. Il sacco lo calavi prima di, cioè prima arrivava il bagaglio, poi arrivavi te, o tutto insieme? No, ecco, anche lì doveva, per non rovinare il materiale, dovevi tenertelo addosso. Doveva prima arrivare lo scarpone e poi la spalla inrollata. Ammazzala. Col peso addosso pure. Vabbè, ma cioè, costa meno un legionario che sì, sì. Tu facevi il materasso del tuo mortaio, praticamente. Bravo, perfetto. Però i miei mortai si sono salvati tutti. Beh. E le tue ossa? Come? Le tue ossa? No, le mie ossa, oddio, io non mi sono mai fatto veramente male al corso, quindi sono andato bene. Diciamo che al corso sono andato piuttosto bene. Però lì già cominciavo a maturare la voglia di levarmi dalle scatole, perché naturalmente non pensavo. Beh, resistito, così, quanto hai resistito? Scusa, è appena arrivato. No, ma poi ho resistito, anzi, io il corso l'ho finito. E poi non sei mai andato a combattere. Quando dovevano mandarci al corpo, la mia destinazione era un paese del Nord Africa. Però non so se ti ricordi il 92. Certo, sì. Ecco, nel 92 ci furono un po' di macelli in cui la Francia partecipò attivamente, e il primo e la prima forza che mandano, la legione. E tu hai combattuto? Non ho avuto il tempo, perché quando siamo arrivati al corpo era giunta la notizia che da lì a poco ci saremmo trasferiti in zona di combattimento, al che la cosa non mi non mi sconfinferava, diciamoci la verità, mica gai in mano. Fermo un attimo, a questo punto è troppo interessante il proseguo. Siccome io devo scendere adesso dal treno, ci fermiamo qui nel tuo racconto, lasciamo la suspense. Tanto io so già quale sarà il treno che prenderai al ritorno, ti rincrocio e continuiamo il racconto. Poi dimmi solo una cosa: i tuoi nel frattempo di te avevano avuto qualche notizia, o già ti avevano fatto cercare dai carabinieri? Sì, hanno avuto qualche notizia, ma te lo racconto un'altra volta, dai. Al prossimo incontro, ciao, alla prossima, ciao. Ciao. Together, I'm telling you from the start. si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.